Funziona. Ciao, sono Fabrizio, sono allevatore di capre cooperativo nella Langa Astigiana, ai confini tra la provincia di Asti e quella di Savona. Io ho una storia un po' più recente rispetto a quella di Giuseppe, faccio questo mestiere da 12 anni, abbiamo incominciato io e altre tre persone da zero in una piccola cascina a 600 metri nel comune di Roccaverano e abbiamo iniziato con 30 capre perché la nostra idea era quella di creare una realtà agricola collettiva che fosse legata a quel territorio, che è un territorio che dai saraceni vede la presenza di capre lì. È dei terreni molto duri, è una zona impervia, sono terrazzamenti hanno circa 200 anni, che sono sempre stati coltivati perché la terra lì piano non ce n'è, per cui la gente si è industriata e ha creato questi muri a secco, non muretti, muraglioni di 2 metri di altezza, per cercare di addomesticare quella terra lì. Noi ci siamo trovati questa cascina di 10 ettari, ci siamo trovati, l'abbiamo cercata spasmodicamente, l'abbiamo trovata, l'abbiamo acquistata e abbiamo iniziato con le nostre 30 capre a pensare di come poter far sì che un'attività agricola potesse essere la nostra attività di vita con un principio ben preciso, cioè che l'agricoltura secondo noi può essere uno strumento anche di riscossa sociale, cioè che il fatto che essere contadini nel 2000 sia una cosa importante e soprattutto attualissima. Adesso io faccio un po' fatica dopo la narrazione di Giuseppe a organizzare il discorso. Beh, lì da noi, dicevo, c'è sempre stato questo tipo di agricoltura, questo tipo di allevamento, ma si era perso anche lì, grazie proprio all'intervento, a causa dell'intervento di agenti esterni, il gusto di allevare le capre al pascolo, di allevare le capre per fare del latte, del formaggio con latte crudo, per cercare di usare il meno possibile mangimi e altri prodotti della chimica o della meccanica industriale, perché comunque gli input esterni avevano creato anche lì un sistema che doveva essere quello di massimizzare la produzione e il profitto in un territorio che oggettivamente queste cose non le può dare. Quindi, con immensa frustrazione di chi aveva resistito, non era andato a lavorare nelle fabbriche e che era rimasto lì, però vedendo che tutto quello che aveva imparato gli stava sfuggendo di mano. Noi chiaramente non abbiamo l'ambizione, cioè non abbiamo la pretesa, abbiamo l'ambizione in qualche modo di recuperare parte di quella cultura lì, partendo appunto da un prodotto che c'è da 1000 anni, che è questo formaggio di capra, che è prodotto in modo artigianale ancora oggi da una trentina di piccole aziende, quasi tutte familiari. Noi siamo appunto in quattro, per cui possiamo essere paragonati a una di queste famiglie che ci sono lì nella nostra zona, e cerchiamo in quel modo lì di portare avanti questa tradizione vedendola appunto in un altro punto di vista, che quella è una ricchezza di un territorio, una ricchezza collettiva che non va persa, ma va tenuta su quei binari lì. Chiaramente cercando anche di mettere dell'innovazione. Noi abbiamo scoperto che, grazie ai nostri studi, alla nostra esperienza, che le capre possono anche essere pascolate non andando fisicamente con loro tutti i giorni, ma facendo dei recinti elettrici con dei centraline con la batteria solare con cui si possono perimetrare i terrazzi e mettere le capre. In altri territori questa roba qui è una roba vecchia come il mondo, da noi non lo faceva nessuno. E siamo stati noi in qualche modo che abbiamo portato questa tecnologia, perché l'alternativa era chiudere le capre in una stalla, non fargli mai vedere niente fuori, quei pochi prati che erano possibile coltivare o sfalciare venivano sfalciati, ma le capre non vedevano mai luce del sole, le capre venivano ecornate perché, non si, perché non dove, dovendo stare chiuse in stalla non si dovevano ferire, per cui perdevano, proprio come diceva Giuseppe, questa capacità, grazie alle loro corna, di venire a contatto con delle energie diverse. Si è snaturato un territorio, si è snaturato un prodotto, un territorio che, come sappiamo, è anche frutto di, ha avuto la sua disgrazia nel frutto di quelle fabbriche che per 100 anni, come l'Acna di Cengio, hanno distrutto una valle producendo prima esplosivi e poi concimi chimici, guarda caso. Per cui proprio quella roba lì, cioè per cui abbiamo potuto vivere grazie a una rivolta che c'è stata nella valle. Fortunatamente la fine di quella fabbrica che avvelenava e distruggeva un territorio, però che adesso fa una fatica immane a rimettersi un po' in carreggiata, perché comunque appunto le spinte sono quelle di abbandonare, le spinte sono quelle di tagliare tutti i servizi, le spinte sono quelle di chiudere le scuole, di chiudere le farmacie, di chiudere gli ospedali, di chiudere gli uffici postali, cioè di chiudere tutte quelle cose che in città sono banali, se vogliamo, no? Ma che da noi sono veramente quello che respiriamo, perché se non possiamo mandare i nostri bambini a scuola, non possiamo mandare curarci, che cazzo ci stiamo a fare? Scusate il francesismo in un posto così. E allora non voglio venire qui a piangervi addosso, però è importante che prendiamo tutti coscienza del fatto che per fare un certo tipo di agricoltura, un'agricoltura veramente legata a un territorio, veramente sana, di qualità per noi che la facciamo e per le persone che se ne cibano, no, non basta difendere l'agricoltura in quanto tale, ma bisogna che tutti insieme difendiamo quelli che sono i diritti come cittadini, i diritti di essere curati, i diritti di essere in qualche modo istruiti, il diritto a una socialità e a un percorso che in campagna, così come in città, deve essere garantito per tutti. Io faccio fatica a volte a fare, forse perché non sono di origine strettamente contadina, faccio fatica a fare queste distinzioni, però credo che la lotta sia la stessa, la battaglia sia la stessa, che in qualche modo poi si incarna nei territori in modo diverso, ma che ci deve vedere veramente tutti uniti. E il modo che le persone che non producono hanno per aiutare chi produce, quello di difendere quei diritti e quello di, da una parte, volere dai contadini una maggiore sensibilità e quindi aiutarci insieme a costruire dei percorsi di garanzia partecipata, di intervento partecipato in cultura, ma che abbiano anche la comprensione che questi prodotti non possono costare come quelli che trovano nei supermercati, che quei prodotti hanno una qualità ma hanno anche un lavoro dietro diverso, hanno anche un prezzo diverso perché c'è una vita diversa, c'è un modo diverso di intendere cultura. Siamo stati abituati male, siamo stati abituati malissimo, che uno va in un negozio, in un supermercato, trova tutto sempre a dei costi che non sappiamo neanche come vengano in qualche modo formati. Dobbiamo riprendere tutti quanti l'abitudine a capire cosa ci sta dietro a quel prodotto, e infatti è la terra trema, è anche uno dei suoi obiettivi. Cosa ci sta dietro? La vita delle persone che lo fanno e soprattutto la qualità. E poi il prodotto deve essere buono, il prodotto deve essere sano, perché se no, no, no non ce n'è, non si vive di carità, si vive di lavoro e di giusto retribuzione del lavoro che viene fatto, che per noi contadini si esplica con un prodotto che sia sensato. E poi un'altra cosa che per noi è importante, per la cooperativa di cui faccio parte, che ho fondato insieme a altri, è che l'agricoltura deve essere, per noi è un mezzo, non è un fine. Cioè è il mezzo per noi e per la società in cui noi viviamo per riappropriarsi della propria vita, per riappropriarsi di quello che è il potersi crescere, nutrire, vivere in una maniera migliore. Questo è quanto.